Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana. E allora, una buona notizia: il via libera di Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea in una giornata che di buone notizie è stata avara avara. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve. Avete ragione che la Consob non può limitarsi a dire che sono stati gli stop loss ad aver aumentato le vendite. C'è chi ha ampiamente speculato su Moody's di ieri, chi si è comprato un Unicredit a 1,31 euro. Ci fa notare un ascoltatore che sono passati tra le 12 e 12.30 4 ordini di vendita su Unicredit da 15 milioni di azioni. Insomma, qualcuno deve anche rispondere di questo, perché non è possibile usare il mercato come una specie di così di giungla dove fare scorribande di questo tipo. Non si capisce come Unicredit potesse perdere il 9% tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezza, adesso perde 4 punti percentuali in meno. Che cosa è cambiato? Allora, vedo già un messaggio di carattere politico su Pisapia. Guardate, a me personalmente non interessa, mi auguro che abbia ragione la Moratti e che ci siano 58 milioni di euro di avanzo, e non mi auguro che abbia ragione Pisapia, però la cosa più importante è sapere come sono messi i conti. È inutile parlare di scuse, insomma, se ci sono 186 milioni di euro di disavanzo va chiarita subito la cosa, perché sospetto di operazioni finanziarie da parte del Comune di Milano negli ultimi anni sono stati avanzati più volte dai giornali. Comunque, cerchiamo Pisapia e cerchiamo anche Tabacci. Come vanno le altre borse? Molto meglio di Milano. Parigi perde, è invariata, Francoforte perde solo lo 0,3%, e Londra guadagna lo 0,3%. L'America perde lo 0,70%, l'euro a quota 1,41,75. In realtà le buone notizie sono due. Una riguarda Mario Draghi ed è un bene per l'Italia in generale. L'altra riguarda la benzina, perché Eni per la terza volta in meno di una settimana ha tagliato i prezzi raccomandati della verde di un centesimo e del gasolio di un centesimo e mezzo. E praticamente ha tagliato di 0,5 centesimi su entrambi i prodotti anche Total Erg, e Tamoil ha limato sempre di 0,5 centesimi la sola benzina. La scia comunque di cali nel prezzo della benzina coinvolge tutte le compagnie. In alcuni impianti è tornata ad avvicinarsi a quota 1,50 euro, il diesel è andato sotto 1,40 euro. Mi rendo conto che un centesimo e mezzo non facciano la ricchezza degli italiani, ma ogni tanto è giusto anche festeggiare. Cala la benzina, festeggiamo! Siamo caduti in basso, festeggiare per un centesimo e mezzo, un centesimo in caso della benzina, ma meglio questo che una scarpata sugli stinchi, diciamo, perché andiamo avanti così. Per quello che riguarda invece il petrolio, in leggero rialzo, ma sempre a 91 dollari al barile, l'oro è in calo a 1515 dollari l'once. La manovra, ne ha parlato Berlusconi, adesso lo ascolteremo, la manovra nel Consiglio dei Ministri verrà annunciata giovedì, sarà una manovra non molto elevata quanto al alla cifra, ha detto Berlusconi. Da quello che è uscito in questi giorni dovrebbero esserci 3 miliardi nel 2011, 5 miliardi nel 2012, 20 miliardi nel 2013, 15 miliardi nel 2014. Faccio solo notare che il 2013 è anno di campagna elettorale. E poi oggi l'incontro questa mattina al Ministero dell'Economia tra il ministro Tremonti e il presidente Confindustria Emma Marcegaglia. Poi sempre Tremonti ha incontrato, ma separatamente, il segretario di CISWIL, quindi Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. E sempre per quello che riguarda il rapporto Confindustria e sindacati, Emma Marcegaglia oggi ha chiarito, lo ha fatto anche al microfono del nostro Andrea Viali, che i sindacati e Confindustria puntano a chiudere un accordo unitario sui contratti nel prossimo incontro di martedì pomeriggio. L'obiettivo è quello di trovare un accordo per arrivare a un accordo interconfederale tra Confindustria, CGIL e CISL e UIL sui temi della rappresentanza e dell'efficacia della contrattazione. Abbiamo portato avanti una discussione, mi sentirei di dire, molto costruttiva. Da parte di tutti noi non c'è nessuna pregiudiziale specifica su temi, come dire, particolari. E quindi mi pare che questo primo incontro sia stato positivo. Ribadisco, non ci sono pregiudiziali, nessuno è arrivato al tavolo dicendo oltre qui non vado, c'è una volontà da parte di tutti di arrivare a questo accordo interconfederale. Ci siamo dati appuntamento martedì pomeriggio per continuare la discussione, quindi come vedete tempi molto, molto stretti. E da parte di tutti noi c'è la consapevolezza che il Paese è in un momento molto difficile, c'è un problema di competitività del Paese, c'è un problema di tasso di disoccupazione, di bassa occupazione, e quindi ognuno di noi si sente responsabile su questi temi, e pensiamo che la risposta migliore che noi possiamo dare come parti sociali è quello, in tempi brevi, di fare un buon accordo interconfederale unitario, tutti insieme, proprio su questi temi della esigibilità e rappresentanza ed efficacia della contrattazione. In realtà c'è anche la risposta della Camusso, quindi del segretario del CGIL Susanna Camusso: bene al tavolo, l'accordo è possibile. Sentiamola sempre al microfono il nostro Andrea Viali. Abbiamo, credo, fatto una buona discussione, una discussione utile che ha permesso di ragionare sulla possibilità di un accordo sulla rappresentanza sindacale e sull'efficacia della contrattazione. Ciò è importante non solo per il giudizio preoccupato che noi tutti diamo del Paese, della sua condizione economica, delle sue prospettive, è importante anche perché rimette il lavoro al centro del tema di come si affronta la situazione, e ovviamente rimettendo il lavoro al centro anche il valore della contrattazione come esercizio fondamentale della nostra attività di organizzazioni sindacali. Questa è la notizia in breve, adesso ci spostiamo subito a Bruxelles. Devo darvi però una terza buona notizia di oggi. Oggi è grasso che cola, perché le vendite ad aprile, vendite al dettaglio, il mondo del commercio, hanno fatto un più 2,5% sull'anno prima. E il dato è grezzo, quindi è al lordo dell'inflazione, sono praticamente ferme, ma insomma non sono in calo. Le spinge soprattutto il settore alimentare grazie all'effetto traino della Pasqua. Infatti l'alimentare ha fatto più 4,7%, siamo ai massimi dal 2008. Allora, c'è chi dice, ma insomma, se non le sta bene il mercato, Barisoni vada in Nord Corea. Ma guardi, a me il mercato sta benissimo, ci mancherebbe, ho solo chiesto se rientra nell'attività della Consob capire come mai un titolo precipita al 9% in mezz'ora e poi li recupera tutti, nel senso che adesso perde il 5, recupera 4 punti percentuali, con ordini di vendita, il caso di Unicredit, concentrati in 3-4 soggetti. Tutto qua. Si può sapere? La Nord Corea non c'entra niente. Antonio Pollio Salimbeni da Bruxelles, dove è corrispondente dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera a voi. Sarai esausto, vista la maratona di ieri sera per arrivare all'accordo con Subini Smaghi? Abbastanza. Abbastanza. E poi oggi invece tutte le varie dichiarazioni. Andiamo con ordine. Mario Draghi nominato presidente via Twitter. Vi ha fregato, Van Rompuy? L'ha mandato via Twitter? No, ormai sono due o tre vertici che Van Rompuy, da tutti considerato, diciamo, un tutto fuorché moderno, e invece ha dato le notizie bruciando praticamente tutti, anzi dandole alle agenzie di stampa, alle televisioni, eccetera. Bravo, Van Rompuy. E allora, vabbè, Mario Draghi, in realtà Van Rompuy, adesso lo ascoltiamo, ha anche detto: Bini Smaghi mi ha confermato che lascerà. Siccome Bini Smaghi è arrivato a citare Tommaso Moro, se non ricordo, no? In un passaggio, sì, facendo capire che insomma lui di andarsene non aveva nessuna voglia, non era neanche previsto dagli accordi, c'è un fine mandato che era fra due anni, tre anni, quando era? Fine 2013. Fine 2013, esatto. E però le pressioni francesi sono forti e sono state forti e insistite. Sentiamo in prima di tutto il presidente dell'Unione Europea. La decisione che ha preso oggi è di nominare Monsieur Mario Draghi. La decisione che è stata presa oggi è di nominare il signor Mario Draghi come presidente della Banca Centrale Europea e quindi come successore di Jean-Claude Trichet. In questo contesto ho avuto un contatto telefonico stamattina col signor Bini Smaghi, che mi ha personalmente comunicato la sua intenzione di porre fine al suo mandato prima della scadenza. Il Consiglio europeo rispetta pienamente l'indipendenza della Banca Centrale Europea e dei suoi membri. Sta al signor Bini Smaghi decidere la data. Sta a monsieur Smaghi de décider du calendrier. Beh, questa è troppo grossa, Antonio. Adesso io capisco la forma, ma dire che tutto l'ha deciso autonomamente Bini Smaghi, che si è trovato una pistola francese puntata alla testa, mi sembra un po' una presa in giro. Ma io direi questo, non è irrilevante il fatto che Bini Smaghi abbia telefonato, abbia avvisato il presidente permanente dell'Unione Europea, Van Rompuy, della sua decisione e non il capo del governo italiano. In una cosa Bini Smaghi ha ragione, secondo me, secondo la mia modesta opinione, così come Italia e Francia hanno, cioè il presidente francese Sarkozy e il capo del governo italiano Berlusconi hanno gestito la questione, è suonato come di fatto una messa in discussione dell'indipendenza dei banchieri centrali europei. C'è poco da dire. Sì, da quando in qua due leader politici decidono chi e quanto deve stare dentro il board della Banca Centrale Europea, uno dei membri, insomma, questo non si è mai visto. È mancato un certo savoir-faire, per dirla in francese, un saper fare, saper combinare queste cose che sono molto delicate nel giusto modo. Invece Berlusconi e Sarkozy hanno strombazzato ai 420 dopo l'incontro bilaterale italo-francese dell'accordo su una carica sulla quale formalmente non hanno alcun potere. Eh sì, tra l'altro senza nemmeno dirlo a Bini Smaghi prima, che stava arrivando a Palazzo Chigi quel giorno. Comunque, praticamente il cancelliere tedesco Angela Merkel dice che è un buon segnale la nomina di Mario Draghi come indipendente della banca, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è complimentato e ha detto Draghi corrisponderà alla fiducia delle autorità italiane ed europee, guidando con mano sicura l'istituzione che opera a Francoforte. Berlusconi ha detto la nomina di Draghi è merito del governo. Eccolo qua. Come sapete già, il Consiglio europeo ha confermato la nomina del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, a presidente della Banca Centrale Europea. Si tratta senza dubbio di un grande successo personale del professor Draghi, che vede riconosciute le sue doti professionali e che saprà certamente gestire in modo sicuro l'istituzione di Francoforte. Permettetevi tuttavia di aggiungere che si tratta anche di un grande successo dell'Italia, del nostro governo, che vede premiato il nostro lavoro, il nostro impegno e che ancora una volta sottolinea il ruolo che noi abbiamo nell'ambito del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. Ho già avuto al telefono il dottor Draghi, gli ho espresso le mie più sentite congratulazioni e gli ho formulato i miei più affettuosi auguri di buon lavoro. Ho avuto al telefono anche il Capo dello Stato che si è compiaciuto massimamente di questo risultato. E questo è il commento del Presidente del Consiglio. E soddisfazione anche da parte della Presidente di Industriale Eva Marcegaglia. Passiamo al fronte greco invece, Antonio, perché lì insomma le cifre circolate oggi, insomma, per il secondo piano di salvataggio servirebbero circa 110 miliardi in più, per cui gli stessi varati nel 2010. Soddisfazione da parte del Presidente francese Nicolas Sarkozy, perché insomma che anche lui ha sottolineato il ruolo avuto dalla Francia e dalla Germania e ha espresso soddisfazione per come si è trovato un accordo sulla vicenda greca. Nous avons la satisfaction sur la Grèce. Abbiamo la soddisfazione a proposito della Grecia di vedere che il compromesso che abbiamo annunciato e su cui abbiamo lavorato con i nostri amici tedeschi venerdì scorso a Berlino è stato ripreso dal Consiglio europeo. La Grecia è sostenuta, aiutata. Gli europei fanno affidamento sul governo e sul Parlamento greco per continuare la politica coraggiosa che è stata intrapresa. Gli europei, con il Fondo Monetario Internazionale, faranno tutto il necessario perché da inizio luglio l'aiuto alla Grecia sia versato e che sia definito un nuovo piano di sostegno. Le modalità di partecipazione del settore privato, sia banche che assicurazioni, corrisponderanno esattamente ai principi messi a punto con la signora Merkel venerdì scorso, ossia in maniera volontaria. I ministri delle finanze metteranno a punto le linee tecniche a partire dalla prossima settimana. Allora, Antonio Poglio Salimbeni, fermo restando che io trovo un po' così vecchio stampo questo atteggiamento di Sarkozy che dice merito nostro, insomma è due settimane che si cerca la quadra su questi aiuti greci, mi sembra un po' eccessivo parlare di successo. Il successo sarebbe stato trovare i soldi subito. Qual è l'accordo raggiunto ed è vero che ieri sera vi sono stati momenti anche di tensione? Ma insomma la tensione ieri sera era quasi più prevalentemente sulla questione della Banca Centrale Europea, per la verità. C'era una questione politica ieri sera al tavolo dei 27 ed era relativa all'atteggiamento della opposizione greca al governo Papandreou. Nonostante che molti leader del Partito Popolare, da Merkel, Sarkozy, abbiano premuto il leader dell'opposizione greca cercando di convincerlo a sostenere l'accordo per i nuovi tagli al bilancio e le riforme economiche, le privatizzazioni, che sono la condizione ineliminabile per ottenere la quinta tranche del vecchio prestito e per cominciare a discutere sul nuovo prestito. L'opposizione greca per ora non cambia, non molla di un centimetro, quindi si vedrà martedì come il Parlamento, con quale maggioranza il Parlamento greco voterà, sosterrà questo pacchetto di misure. L'attesa qui a Bruxelles è che comunque il Parlamento lo voterà, dopodiché sarà sborsata la quinta tranche di 12 miliardi e comincerà il lavoro per approntare il secondo pacchetto, che appunto, come anticipato oggi, annunciato oggi Georgios Papandreou, il premier greco, sarà della dimensione del primo, cioè circa 110 miliardi. Si tratta di vedere qual è la parte che spetterà, che sarà sostenuta naturalmente in via informale e volontaria dal settore privato, cioè le banche che detengono titoli greci. In questi giorni si è parlato di 30 miliardi di un rollover, cioè della sottoscrizione di nuovi titoli in sostituzione di quelli in scadenza per circa 30 miliardi. Si tratta di vedere come andrà a finire questa questo negoziato silenzioso, informale e molto molto prudente con le banche nei prossimi giorni. No, io chiarisco il mio pensiero, trovo insopportabile questa cosa per cui Sarkozy e la Merkel adesso abbiamo trovato l'accordo. Faccio notare che con tutti i difetti che ha avuto la Grecia, li abbiamo raccontati, ha truccato i conti già quando è entrata nell'euro, ha vissuto per decenni sopra le sue possibilità, ha contratti nel pubblico impiego inimmaginabili quanto a garanzie, ha un nero che rappresenta il 40% di tutto il PIL greco, con tutti i difetti che ha la Grecia, proprio perché la Grecia è a sud, è mediterranea, non si capisce come mai i bravi tedeschi e francesi, quando c'è da comprare però o prestare soldi alle banche greche o comprare obbligazioni greche, si siano riempiti la pancia di obbligazioni e prestiti alla Grecia. 55 miliardi la Francia, 35 miliardi la Germania. Dico perché poi sembra, ah, siamo generosi, abbiamo salvato la Grecia. No, siete furbi, avete state salvando le vostre banche. Comunque, grazie Antonio Paolo Salimbeni. Borsa che alla fine chiude a Milano con un meno 1,61%, Unicredito meno 5,50%, Intesa San Paolo meno 4,26%, Mediobanca meno 4%, Azimut meno 3,90%, mentre di positivo oggi c'è TOZ più 2,93%, Pirelli più 2,40%, Diasorin più 1,17%, Prismian più 1%, Stima Electronics più 0,90%, Enel più 0,80%, Atlantia più 0,60%. Va detto che la giornata nel resto d'Europa è stata abbastanza tranquilla, Parigi invariata, Francoforte meno 0,30%, Londra più 0,30%, l'America meno 0,50%. Da noi questo calo, che era anche superiore, si chiama mondo bancario. Allora, Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Si è capito che è successo tra mezzogiorno e mezzogiorno e 30, quando Unicredito perdeva il 9, Intesa San Paolo il 7... e Monte dei Paschi il 5? Beh, quello è stato proprio il punto di svolta della seduta. Da quel momento in poi gli analisti operatori si sono interrogati anche loro sulla causa di queste oscillazioni. Non c'è nessuna risposta chiara e sicura. Diciamo che le voci più ricorrenti, i rumors più ricorrenti sul mercato sono quelli di indiscrezioni sugli stress test. Secondo queste indiscrezioni, ovviamente assolutamente non confermate, alcune banche italiane potrebbero avere difficoltà a superarli e quindi potrebbero essere costrette a raccogliere nuovo capitale, ma si parla anche banalmente... Aspetta che ti interrompo, perché prego. Ogni giorno Moody's dacci oggi il nostro comunicato quotidiano. Eccolo qua. Allora, l'agenzia di rating Moody's ha messo sotto revisione, in vista di un possibile peggioramento sul voto, i covered bond emessi da Carige, quindi Cassa Depositi di Genova, Monte dei Paschi, Banco Popolare, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa San Paolo, dopo che ieri la stessa Moody's aveva minacciato di abbassare, aveva messo sotto osservazione il voto a 16 banche italiane. Meno male che domani è sabato. Prego Paolo. Sì, certo, infatti c'è anche sicuramente l'effetto Moody's, anche se bisogna dire che in apertura questa mattina i titoli delle banche avevano reagito positivamente alla notizia dell'accordo sulla Grecia ed erano partite in positivo. Dicevamo sul crollo che c'è stato appunto attorno alla metà seduta, e molti parlano anche di un errore nell'emissione di alcuni ordini, di grossi pacchetti di ordini, soprattutto nel trading elettronico. Probabilmente, forse, se si riuscirà mai a fare chiarezza, si farà soltanto nei prossimi giorni. Anche la Consob, a quanto si è appreso, ha acceso un faro sulla vicenda e cercava di capire cosa è avvenuto in quelle fasi con queste forti oscillazioni. I titoli delle banche a Piazza Affari hanno poi recuperato, anche se sul finale sono tornati a scendere, come ricordavi tu, Unicredit giù del 5,5, Intesa del 4, a fronte di un settore europeo che ha chiuso in calo sì, ma soltanto di 1,5%. Ecco, la migliore comunque tra le banche è UbiBank, che perde solo lo 0,94%. Nell'ultimo giorno dell'aumento di capitale, tra l'altro. Sì, esattamente, oggi si chiude il periodo per l'offerta in opzione ai soci delle nuove azioni per l'aumento di capitale da 1 miliardo, e secondo le primissime stime comunicate da fonti vicine alla banca, la sottoscrizione sarebbe ben oltre il 90%, quindi un esito che possiamo definire incoraggiante per l'aumento di capitale di UbiBank. Com'è andata oggi invece Fondiaria Sai? Fondi a Versailles oggi per gran parte della seduta è stata in deciso rialzo dopo che ieri, ricordiamo, i titoli avevano sofferto molto l'annuncio delle condizioni dell'aumento di capitale a forte sconto. Sul finale diciamo che i titoli hanno limitato di gran lunga i guadagni, chiudendo poco mossi, in rialzo soltanto dello 0,3%, appena sopra quota 4 euro per azione. Dice un ascoltatore, e devo dargli ragione, con tutto il rispetto per la trasmissione, pensare ad un errore nell'inserimento degli ordini è un po' come credere che Jérôme Kervier, l'interprete francese, abbia fatto da solo. Io, questa giustamente è la versione ufficiale, ogni volta che la sento, Paolo, è una delle tante versioni. Sì, no, ma a me questa cosa, no, lo so che non sei tu e ci mancherebbe, mica l'hai fatto tu l'ordine, però a me che ogni volta che ci sono questi movimenti fortissimi, questi strappi in cui un titolo perde il 9% e poi recupera il 4% con guadagni stellari, errore del trader, è la miseria, ogni volta errore del trader, sono coincidenze, vabbè. Andiamo avanti, invece, Todds, qui c'è l'effetto Prada, al di là delle polemiche tra i nostri stilisti, Prada oggi era il primo giorno di quotazione ad Hong Kong, ha aperto a $39,75 con un leggero aumento rispetto al prezzo iniziale. Tra l'altro, Intesa San Paolo ha venduto il 4% di Prada nell'ambito della quotazione del gruppo di moda Hong Kong, 360 milioni di totale, resta con l'1%. Effetto Prada. Sì, esattamente. Anche sulla borsa non è male. Sì, anche se, come ricordavi tu, poi il titolo Prada ha fatto, mi ha messo a segno soltanto un lieve rialzo, più 0,25%, la prestazione è comunque migliore di quanto si aspettassero gli analisti specializzati sul mercato di Hong Kong, che parlava di un calo tra il 3% e il 5%, e inoltre è meglio di quanto registrato di recente da altri colossi internazionali che si sono quotati di recente a Hong Kong, a partire da Samsonite, che ricordiamo a inizio giugno aveva chiuso la prima seduta con un calo vicino al 10%, quindi l'andamento di Prada è stato giudicato comunque positivo, ha portato sotto i riflettori il settore della moda del lusso, in particolare della moda del lusso italiano. Todd se ne ha approfittato chiudendo con la migliore prestazione tra le blue chip milanesi, in rialzo del 2,93% sopra gli 86 euro per azione. Ancora, volete sapere come ha chiuso lo spread, a differenza tra quanto rende un BTP italiano e l'equivalente tedesco, il Bund? Purtroppo male, nel senso che la differenza su, che poi misura il rischio di un paese, lo ripeto ancora una volta, più devi offrire, è un po' come un privato, no? Se la banca ti presta i soldi con un tasso di interesse al 2%, sei affidabile, se ti presta con un tasso al 10% vuol dire che ti ritiene a rischio. Allora, vale la stessa cosa per uno Stato, quando uno Stato deve finanziare il suo debito emette obbligazioni, se gli basta offrire un basso tasso di interesse vuol dire che è molto affidabile, che nessuno al timore che fallisca. Se deve, più aumenta il tasso di interesse, più vuol dire che devi convincerli che sia affidabile, aumentando il loro guadagno. Pensate che la Grecia in questo momento viaggia al 24-25% di tasso di interesse sulle potenziali emissioni obbligazionarie. Dicevo, ai massimi la differenza con la Germania, che è lo Stato in Europa considerato giustamente in questo caso più affidabile nel credito spread con il Bund, termine molto tecnico. Siamo ai massimi dal 1999, da quando è nato l'euro, quanto differenza tra BTP e Bund, 212 punti. Altri titoli invece, oltre a Todds di cui abbiamo detto, Pirelli più 2,40. Pirelli si oggi ha fatto registrare la seconda migliore prestazione sul FTSE MIB, in questo caso secondo gli operatori si tratta di un effetto traino del settore auto europeo, che è stato il migliore appunto a livello continentale, in avviato dell'1,54%, dobbiamo dire che fa eccezione l'Italia, dove Fiat ha perso l'1,4%, ma nel resto d'Europa i titoli del comparto hanno approfittato di una valutazione oggi migliore dell'attuale congiuntura economica grazie all'indice IFO tedesco sulla fiducia degli imprenditori appunto tedeschi, che è migliorato in giugno oltre le attese degli analisti, e questo ha spinto gli investitori a comprare i titoli più ciclici, cioè quelli più legati all'andamento dell'economia. Tra l'altro, su questo faccio notare come l'euro, mi chiedete anche dell'euro, l'euro quota 1,41,90, per cui non resta debole nei confronti del dollaro. Volete sapere quanto ha influito lo spread con il Bund? Non lo so, sulla borsa mi sembra in questo momento molto molto poco. Enel Green Power più 0,80% e Steam Electronics più 0,90%. Sulle agenzie di rating, allora, torniamo su. È vero che le agenzie di rating non hanno visto la crisi arrivare, non hanno visto Lehman Brothers fallire, nel caso italiano non videro neanche Parmalat saltare per aria. Però è anche vero che prima di buttare via tutto delle agenzie di rating io andrei cauto, perché guardano i debiti e si muovono di conseguenza su tutti i vari paesi. Seconda parte di Focus Economia, dopo aver parlato di chiaramente del tonfo del mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo dei titoli bancari a Milano, che hanno chiuso comunque molto male, Intesa San Paolo ma soprattutto Unicredit meno 5%, Intesa meno 4,26%, e aver raccontato il via libera a Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, e anche l'obbedisco di Lorenzo Benismaghi. Continua adesso il nostro ciclo di interviste con manager del settore pubblico e del settore privato per capire come si muovono a livello di strategia di impresa, ma anche quello che pensino della situazione italiana in questo momento. Oggi è la volta di Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato di CIR, che CIR è l'acronimo di Compagnie Industriali Riunite, e dal 1995 anche di Cofide. La CIR, fondata da Carlo De Benedetti, è una holding industriale che a sua volta è controllata dalla Cofide, che ne ha il 46%, della famiglia De Benedetti, opera in 5 settori principali: energia attraverso Sorgenia, che è il primo operatore privato nel mercato dell'energia, e poi i media, il gruppo Espresso, il più noto di tutti, ma anche le radio all'interno del gruppo Espresso, componentistica auto, e qui parliamo di Sogefi, e poi sanità con la COS, e infine anche con una divisione di investimenti finanziari. Quotata a Piazza Affari, capitalizza 1 miliardo, circa 300 milioni di euro, dipende dai giorni anche di borsa, e ha un giro d'affari di quasi 5 miliardi di euro, 4 miliardi e 800 milioni. Più 12% nel 2010 con 57 milioni di euro di utili. Allora, Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato appunto di CIR, grazie innanzitutto. Buongiorno. Prima domanda, poi arriviamo alla visione del paese e a quello che è fare impresa in questo momento in Italia. Voi avete concluso due operazioni proprio questo mese, quindi a giugno. Una il 21 giugno scorso con Sogefi in Francia, l'altra con Sorgenia, quindi nel primo caso con componentistica auto, l'altra con Sorgenia sempre in Francia. C'è questa grossa attrazione per la Francia? Diciamo, noi storicamente come gruppo siamo stati attivi in Francia anche in tempi più lontani, dove avevamo costituito una holding che oggi non c'è più, abbiamo fatto degli investimenti importanti, siamo stati per anni l'azionista di controllo di Valeo, che è una delle più grandi aziende al mondo di componentistica per auto basata in Francia, ed è tradizionalmente un mercato vicino al mercato italiano, e per cui come aziende italiane abbiamo guardato da tempo alla Francia come diciamo a un mercato prossimo. Sogefi in particolare ha fatto negli scorsi 15 anni una serie di acquisizioni in Francia, i suoi due mestieri, che sono i filtri e le molle, sono basati da un punto di vista operativo a Parigi, in quanto abbiamo acquisito due aziende francesi che sono molto più grandi di quello che avevamo prima noi in Italia, pur essendo nati tanti anni fa, 30 anni fa in Italia. E la Francia ha rappresentato in questi anni il nostro principale mercato finale. L'acquisizione che abbiamo annunciato 3 giorni fa è un'operazione molto importante per noi. Abbiamo acquisito una società che si chiama Macfor System Moteur, è un'azienda che l'anno scorso ha fatto 270 milioni di euro di fatturato, 80% del fatturato in Europa, 20% negli Stati Uniti, ed è un'azienda che si complementa da un punto di vista industriale molto bene con la nostra attività di filtrazione, che ci consente di rafforzare quella dimensione di sistemista che oggi è la chiave competitiva nel nostro settore. Invece con Sorgenia lo scorso 3 giugno avete fatto un'operazione anche qui di joint venture, se ben capito, in Francia, per produrre energia eolica? Noi abbiamo 4 anni fa, come Sorgenia, acquisito la seconda azienda francese nel campo dell'eolico. Abbiamo sviluppato questa azienda e abbiamo annunciato un paio di settimane fa la costituzione di una joint venture paritetica 50-50 con il gruppo KKR, che è un gruppo finanziario. Sorgenia apporta gli asset produttivi nell'eolico, sia quelli esistenti che quelli in corso di costruzione, continuerà separatamente a sviluppare la pipeline di progetti in sviluppo nell'eolico in Francia, e KKR apporta mezzi finanziari. È un'alleanza per noi importante perché ci consentirà di continuare questo percorso di crescita sulle rinnovabili che ci ha visto, diciamo, più o meno dall'inizio, da quando siamo partiti, abbiamo molto scommesso sulle rinnovabili pensando che fossero l'energia del futuro. Ecco, si è un po' placata, ma insomma c'è stata per alcuni mesi, all'inizio di quest'anno, una forte polemica sulla campagna d'acquisto francese in Italia. Voi avete fatto il contrario. Come, per inciso, insomma, avete avuto qualche problema a acquisire aziende francesi? Zero, nessuno. Quindi lo sciovinismo francese è la nostra, così, è un nostro preconcetto. Lo sciovinismo francese in passato è esistito su certe specifiche operazioni particolarmente anche belga, come suo padre ricorda bene. No, ma è esistito, certamente è esistito. Credo che oggi esista meno, probabilmente esiste ancora un po'. Penso che invece di lamentarci sul fatto che i francesi vengono a comprare le nostre aziende, dovremmo ringraziarli. Dovremmo ringraziare chiunque dall'estero mette dei capitali e fa fiducia alla nostra economia e investe sulle nostre aziende, e dovremmo essere un po' più coraggiosi e un po' meno lamentosi e andare noi a fare questo in altri paesi in giro per il mondo. Quindi facevo la battuta quando suo padre tentò di comprare il più grosso gruppo assicurativo belga. Sì. Di allora lì vi fu invece una levata di scudi, però adesso vado a memoria e mi inganna la memoria. 25 anni fa. 25 anni fa. Abbiamo letto e sentito dire di tutto, insomma. La cosa principale però sembrerebbe essere che con l'avvento di internet, dei social network e di quant'altro, i margini di utile dei gruppi, dei media, si sono ridotti. Allora, secondo lei, questo vale forse meno per la radio, ma insomma la tendenza è questa, è d'accordo con questa visione? Io credo che come tutti i grandi cambiamenti c'è la dimensione minaccia e c'è la dimensione opportunità. E per carattere cerco di guardare più alla dimensione opportunità. Penso che internet non sia diverso. Internet è qualcosa che in tanti settori, ma certamente in modo forse più importante nel mondo dei media, ha rivoluzionato molti modelli di business, ha rivoluzionato la modalità di consumo dei prodotti di media da parte del mercato. Penso che sia un grave errore vedere internet come una minaccia e porsi rispetto a questo sviluppo inevitabile della tecnologia in modo difensivo. Penso che, come dicono gli anglosassoni, bisogna embrace internet, cioè bisogna cercare di cavalcarlo, bisogna cercare di farci leva sopra. Il gruppo Espresso, in tempi non sospetti, ormai credo circa 15 anni fa, ha creduto molto e forse fra i primi in Italia nel mezzo. Repubblica.it è stata creata circa 15 anni fa, è stato da quasi subito è diventato il prodotto leader dei siti di news, ha mantenuto e ha rafforzato negli anni questa leadership, e oggi Repubblica.it ha in media 2 milioni di utenti unici al giorno, quando il giornale di carta, che ha 25 anni, ha 3 milioni di lettori. Per cui credo che sia una buona indicazione della rapidità con la quale internet, tendenza, certo. Ecco, chiaramente le aziende di media hanno la grande sfida di cercare di accelerare il più possibile la crescita all'interno del loro portafoglio di attività, di queste attività digitali che sono chiaramente quelle in crescita, e di gestire, diciamo, al meglio un mercato maturo che è quello dei mezzi tradizionali. Allora, vedo già dei messaggi al 349-238-6666. Abbiamo un accordo con Rodolfo De Benedetti, non chiederò del lodo Mondadori perché è ancora in corso la decisione, quindi per motivi di correttezza né di giudizi politici. Vedo che molti del gruppo L'Espresso, Repubblica, vorrebbero sapere cosa ne pensa della situazione politica, ma noi oggi in questo programma sempre ragioniamo di imprese e di economia. Però una domanda proprio sull'impresa e economia, sul gruppo Telecom Italia Media, quindi la 7, gliela devo fare perché in queste settimane è circolato molto l'ipotesi che o voi o il gruppo Rizzoli foste interessati a rilevare una Telecom Italia Media e una La 7, così in fase di primavera di rinascita grazie all'arrivo di Mentana, ma non solo. Ma sono state dette e scritte tante fantasie. Beh, che detto da un editore non è male. Beh, capita. Guardi, io la cosa che devo dire mi dà più fastidio, non tanto nel il caso in sé, non è tanto importante, ma è che quando si parla di queste cose e si parla del Gruppo Espresso si tende a dare l'idea che ci sia dietro un disegno o una visione politica. Dai, insomma, dai. L'azienda Espresso, no, ma aspetti, l'azienda Espresso è un'azienda che fa business, che fa editoria e che gestisce le proprie testate in un'ottica aziendale. Dopodiché fare media per chi fa il prodotto, questo è diverso, questo non è l'azienda, questi sono i direttori, sono le redazioni, hanno evidentemente le loro idee politiche, le loro posizioni, che peraltro nel Gruppo Espresso hanno da ben prima che la CIR ne diventasse l'azionista di controllo una ventina di anni fa, per cui diciamo in tempi non sospetti queste idee o queste posizioni erano già da questi, da questi mezzi di informazioni sostenute. La 7 è una fantasia, quello che certamente è vero è che l'Espresso è impegnato da tempo, lei l'ha ricordato prima, su una strategia di multimedialità focalizzata sul mercato italiano, dove cerchiamo di fare convivere dei mezzi di carta stampata, i giornali locali, la Repubblica come quotidiano nazionale, una serie di prodotti di news magazine o stand alone o associati al quotidiano, un'attività importante che è quella della radio, che lei citava prima, che ci ha dato in questi anni delle grandi soddisfazioni, che ha avuto tassi di crescita e che ha dato un contributo importante che continua a darlo alla redditività del gruppo. È un gruppo che è gestito e i suoi risultati d'altronde lo dimostrano, non è che si ottengono per caso, con una strategia aziendale. Poi ci si può sbagliare, ecco, ma non... No, io vorrei però far notare agli ascoltatori, almeno avessero la... riconoscessero il nostro grado di ecumenismo, perché invitiamo un concorrente diretto anche di questa radio, oltre che del giornale, forse meno, perché il Sole 24 Ore e la Repubblica sono su due obiettivi diversi, come radio invece Radio Capital e Radio DJ sono dei concorrenti anche nostri diretti, ma noi siamo ecumenici. Lo apprezzo, la ringrazio. No, a parte questo, ma poi ci inviterete voi un'altra volta a fare... La concorrenza fa bene. Ah beh, su questo, guardi, è il mantra di questo programma. Liberalizzazione e concorrenza fanno bene. Mi dica una cosa, però, quindi questo, al di là della 7, questo vuol dire che voi non avete intenzione di fare altre acquisizioni nel settore media in questo momento? Guardi, le acquisizioni e le operazioni prima si fanno e poi si comunicano. Noi spereremo il contrario, però. Capisco, ma non sono in grado di darle soddisfazione su questo. Per cui, no, sì, no. No. No, non ci sono acquisizioni in vista. No. Ancora due domande brevissime per lei che abbiamo rivolto anche agli altri manager o industriali che sono stati i nostri ospiti. Prima domanda, il tema tasse. Bisogna in qualche modo aumentare la tassazione sulla rendita e quindi guadagni da investimento finanziario e quant'altro e diminuire la tassazione sul lavoro? Sì, sono d'accordo, scusi, io... rifugo sempre da degli slogan semplicistici. Quando si dice bisogna tassare i ricchi, io sono assolutamente d'accordo che bisogna tassare i ricchi se con questo si intende tassare le rendite finanziarie che non sono produttive. Sono assolutamente contrario quando tassare i ricchi significa tassare quegli operatori economici che fanno impresa e che utilizzano il loro lavoro e il loro capitale per creare un volano per l'economia, per creare posti di lavoro, per creare... Ma dico anche sul patrimonio, cioè la proposta che è arrivata dalla Sony di Luigi Abete è di introdurre anche una piccola quota di patrimoniale. Filosoficamente non sarei contrario, ci sono tanti paesi dove esiste la tassa sul patrimonio, paesi anche molto capitalisti, non mi sciocca. Secondo aspetto riguarda invece la difficoltà di fare impresa in Italia. Ora voi fate impresa in quattro settori molto diversi, tra loro editoria, energia in senso lato, componentistica auto e investimenti finanziari. Se lei dovesse trovare un filo rosso in settori così diversi sulla difficoltà che incontro, cioè dov'è che lavoriamo col freno a mano tirato, quale individuerebbe? Ma guardi, io posso portarle diciamo la testimonianza di quello che abbiamo fatto noi negli ultimi 12 anni. Di questi quattro settori che lei citava prima ne abbiamo creati due partendo dal Prato Verde, che sono l'energia e la sanità. In queste due aziende oggi lavorano in Italia 4.500 persone che, ripeto, 12 anni fa non esistevano. Per cui si può fare. Detto questo, è vero che l'Italia ha una serie di nodi che sono quelli che causano il basso tasso di crescita della nostra economia, che è il problema di questo paese, che hanno, diciamo, creato una crescente disoccupazione, che sono dei nodi strutturali e dei quali si parla da decenni. Ogni nuovo governo annuncia che farà le riforme strutturali, pochissime sono state fatte. E io penso che ce ne vorrebbero molto di più. Penso che diciamo, il caso di Sorgenia, per esempio, che è un'azienda che è nata nel 99 sull'onda della liberalizzazione del mercato dell'energia. Cioè, liberalizzazione vuol dire poter creare nuovi attori, vuol dire maggiore concorrenza sul mercato, vuol dire minori prezzi per i consumatori, vuol dire posti di lavoro, vuol dire investimenti. È a costo zero, cioè anche in un paese che non può permettersi diciamo supporto pubblico all'economia come l'Italia, queste cose si possono fare. E un altro tema sono le privatizzazioni, non se ne parla. Noi abbiamo comunque una parte rilevante della nostra economia che è un'economia di Stato. Io non ho più sentito nessuno sull'arco costituzionale negli ultimi anni parlare di privatizzazioni, e nello stesso tempo si dice non ci sono i quattrini per fare delle politiche pro crescita. Ma perché non ci poniamo il problema di liberare questi enormi capitali? Io privatizzerei tutto. Anche se non sempre nel passato, penso a Telecom Italia, le privatizzazioni sono state così. Ma non c'è la prova del contrario, sa, voglio dire, bisogna vedere. Anche lì privatizzare bisogna vedere come, ci sono tanti modi di farlo. Sì, magari sono stati sbagliati i modi, non è detto che fosse sbagliato l'idea di privatizzare. L'Italia è a rischio, secondo lei? Perché insomma abbiamo chiesto 2 o 3 giorni fa sia ad Abete che a Gamberale se era peggio adesso al 92. Devo dire che sia Abete che Gamberale hanno detto tutti e due che era peggio al 92, quando la lira uscì dallo SME. Ma io concordo, penso che la grande differenza è che nel 92 non c'era l'Europa, o meglio, diciamo, non c'era l'euro e c'era un'Europa molto meno avanzata di quello che è oggi. Penso che se vivessimo la situazione di oggi nella situazione del 92, cioè senza l'euro, probabilmente la situazione del nostro paese sarebbe molto più critica. Io credo che la crisi alla quale assistiamo oggi è una crisi dell'Europa. Penso che si parli dell'Italia perché si parla della Grecia, perché esiste la Grecia, perché esiste l'Irlanda, perché esiste il Portogallo. Inevitabilmente ci si chiede chi viene dopo. Non che l'Italia non abbia dei problemi. Penso che per risolvere questi problemi bisognerebbe fare alcune di quelle cose che dicevamo prima e cercare di dotare l'economia italiana strutturalmente di un tasso di crescita nettamente superiore rispetto a quello che ha avuto in questi ultimi 10 anni. Bene, grazie, perché con questa intervista si conclude appunto il ciclo di questa settimana, chiaramente si conclude anche Focus Economia. Una domanda, visto che ho Rodolfo De Benedetti qui, non me lo faccio sfuggire, le piace Radio 24? Molto. Oh, ecco, non potevo dire, altrimenti se no non usciva dallo studio. Grazie Rodolfo De Benedetti, amministratore delegato di CIR. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. A me non resta, come ogni venerdì, che ringraziare Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in studio e in redazione, darvi appuntamento lunedì prossimo dalle 17 in poi e soprattutto augurarvi un buon fine settimana. Radio 24. La passione si sente.